Progress. Quando la tecnologia diventa per tutti. Yesterday morning at 2:41 a.m. we must now devote all our strength and resources to the completion of our task both at home and abroad. Advance Britannia. L'8 maggio del 1945 alla radio inglese Sir Winston Churchill annunciava la fine della Seconda Guerra Mondiale. Di quella storica trasmissione avete appena sentito il passaggio cruciale. Le vicende di quel tragico conflitto furono segnate da un'invenzione che diede, e per fortuna, alle forze alleate un vantaggio di enorme valore. Questa invenzione fu il radar. Dagli anni 40 in poi, questa tecnologia si diffuse in molti settori importanti, nei trasporti aerei, in quelli marittimi, ma anche nelle previsioni meteo. Però il radar non è mai arrivato a noi cittadini, nella nostra vita quotidiana. Questa è un'assenza che sta per finire. Sono le auto che ci stanno mettendo il radar tra le mani, perché lo sappiamo tutti. Quando si manovra, c'è sempre un punto della carrozzeria che copre la nostra visibilità, il cosiddetto angolo cieco. Ecco, un radar montato a bordo invia un segnale allo specchietto retrovisore esterno. Se ci si mette in sorpasso o ci si sposta di corsia con rischio di collisione, il radar te lo segnala sul cruscotto. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24 in collaborazione con Ford.